bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia e il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici si declama come una poesia per volare.